La vita in un film di Franco D'Assisi. E quel mitico viaggio in California che dovevamo fare da costa a costa, cost to cost. Deve vedere oggi quanto cost to cost. Ragazzi, io ci vado. Ho prenotato il volo per Miami, poi mi affitto una macchina e mi butto sulle spiagge di Malibu. Malibu! Ma io con te sceglierei dei corsi. E perché non vieni? Ma come faccio? Sono bloccato dalla famiglia. Mi hanno fatto prenotare a dicembre, 12 giorni in un villaggio a vacanze in Senegal, ma se po'. Lorenzo, tu che fai? Ma come che fai? Ma sono domani da farmi il 3 agosto. Ma te stella, ma sono già organizzato la grandissima io, no? Dopodomani a Portofino metti in acqua la mia nuova bestia, un cabinetto di 18 metri. Vabbè, non volete venire? Vuol dire che a Miami vado con Silvietto. Non posso, vado in Russia con una mia collega, parto per la Crimea. Oh, han detto che c'è da spattaccarsi in Crimea. Quando mai, quando mai? Allora perché i russi vengono in Italia a fare i profughi? Buonasera da Franco D'Assisi, 18 e 8 minuti, la vita in un film. Oggi, come avete capito, parla di vacanze. Parla soprattutto di italiani in vacanza. Come siamo, come ci ha raccontato il cinema, in quali film abbiamo rivisto qualcosa delle nostre villeggiature. Cercheremo di mettere insieme uno spettro piuttosto ampio, dalle vacanze da ragazzini, da adolescenti, e fino a quelle adulte. Quella che avete sentito era Sognando la California, un film targato Vanzina, che raccontava proprio di una vacanza e di un mito della vacanza che poi a un certo punto un po' si disgrega. Questo tentativo anche in età adulta di provare a rimettere insieme tutti gli amici per andare a fare un viaggio magari mitico, magari sognato per tanti anni, ma poi come vedete ci si organizza, ognuno scappa un po' all'ultimo momento, ognuno ha altri progetti e i sogni rimangono sogni. Noi come sempre abbiamo i nostri microfoni e i nostri telefoni soprattutto aperti al pubblico che vuole intervenire e per raccontarci in quale film ha rivisto appunto un pezzo del suo percorso vacanziero. 800 24 00 24 è il numero di telefono per poterci dire appunto la vostra e per poter magari anche interloquire brevemente col nostro ospite di questa puntata che non poteva che essere Enrico Vanzina, che saluto. Ciao Enrico, buona serata. Ciao, come stai? Tutto bene, tutto bene. Dove ti raggiungiamo di bello? Sono a Monaco di Baviera. Ah, fantastica città, altro che qui sì, sì. Questa sì. È una vacanza molto molto interessante. No, poi sono qui per lavoro, oltretutto. Ecco, quindi, cioè, forse ci hai svelato, chissà, magari un pezzo della prossima vacanza. No, sto facendo della pubblicità. E allora, Enrico, abbiamo cominciato con Sognando la California. Tu esatto, sei stato... quella è la storia di un viaggio che non era stato mai fatto e che a distanza di 20 anni un gruppo di amici decidono di fare. Ma si accorgeranno attraverso questo viaggio che sono cambiati loro, il viaggio è sempre lo stesso e poi alla fine del film, però attraverso questo viaggio capiscono anche tante cose. Effettivamente, come dicevo, è un sogno, no? Un sogno che tante volte si ha da ragazzi, si pensa tutto sommato di rimanere ventenni, trentenni per sempre, poi ci si rende conto che la vita ti cambia e che anche queste vacanze da mito, in un certo senso, forse non si riescono più a recuperare nemmeno per i capelli. Tu hai narrato, Enrico, la vacanza, come dicevo prima, e l'italiano in vacanza più di ogni altro, ne hai fatto quasi un marchio di fabbrica. Ti chiedo perché hai scelto questa situazione che comunque rimane eccezionale, no? I 15 giorni di vacanza rispetto a tutto un anno di vita, perché hai scelto di ambientarli lì e di raccontarli lì gli italiani? Ma guarda, innanzitutto credo che insieme a mio fratello Carlo abbiamo fatto un po' di tutto, però diciamo i due film forse che sono rimasti nell'immaginario di più sono due film che parlano di vacanze, che sono Sapore di mare, che è una specie di storia autobiografica delle nostre vacanze lunghe, quando negli anni 60 le vacanze duravano molto di più, era un periodo completamente diverso, per cui è anche un film sull'iniziazione all'amore, un'iniziazione alla vita, anche un film un po' sulla nostalgia. E l'altro invece che abbiamo fatto l'anno dopo si chiamava Vacanze di Natale, è stato il primo, perché però hanno fatti tanti, ma noi però non è che non abbiamo fatti tutti, abbiamo fatto soprattutto questo primo, che era un'immagine invece di come l'Italia stava cambiando in quel momento lì, negli anni Ottanta, questo imbarbarimento anche probabilmente di una certa borghesia che stava cambiando, ed è un film molto riuscito che è rimasto nell'immaginario. Per cui insomma siamo legati molto a questa cosa. Ma perché, tu dici? Perché il momento della vacanza è comunque un momento irripetibile, nel senso che in quei 15 giorni, 20 giorni, quella settimana, quei 3 giorni, possiamo essere diversi da noi stessi, vale a dire quello che è divertente, quello che è interessante è che è lì che si forse si trova l'amore, è lì forse che ricomincia una nuova vita, è lì forse che finisce un amore, è lì forse che si capisce cosa sarà il nostro futuro. Ma tutto questo partendo da un presupposto strano, che in cui, siccome non siamo nel nostro abito, non siamo nella nostra realtà, possiamo essere diversi e diciamo anche un sacco di frottole. Ci sono quelli che dicono di essere singoli invece sono sposati, ci sono quelli che dicono di essere ricchi invece non hanno una lira, e questo crea finalmente uno scambio con persone che non abbiamo l'abitudine, non possiamo incontrare durante la nostra vita quotidiana, e questo rimescola le carte. Un momento molto interessante, trovo, anche dal punto di vista comico. Assolutamente, tu dicevi si raccontano un sacco di frottole, a volte invece forse si riesce a essere davvero se stessi, perché si toglie quella maschera che tutti indossiamo, no? Tutti i giorni, no? E come no? E poi io appartengo a una generazione che da ragazzi attraverso le vacanze abbiamo scoperto il mondo, perché siamo partiti appunto in Germania, siamo andati a Parigi per la prima volta, siamo andati a conoscere le ragazze svedesi, tutto questo si faceva facendo l'autostop oppure con in sei in una macchina, tutte cose insomma che aprono la testa, è il momento veramente di crescere, ecco, per cui quelli che fanno le vacanze cretine, proprio veramente cretine, chiusi nel loro quotidiano, rivedendo gli stessi amici che vedono durante l'inverno, sbagliano, perché quei 15-20 giorni che abbiamo a disposizione vanno utilizzati o culturalmente o sentimentalmente o comunque per aprirci la testa in qualche modo. Enrico, ti faccio ascoltare i nostri ascoltatori proprio una clip di Sapore di Mare. Era il 1983, c'era questa sorta di Italian Graffiti appunto in vacanza. Sentiamo. Luglio, col bene che ti voglio, vedrai, non finirai. Uno stabilimento balneare è come una piccola comunità. La gente si conosce da anni ed è legata da piccoli intrighi da spiaggia che servono a uccidere la noia e passare il tempo. Ma la famiglia Pinardi, che villeggiava al Forte per la prima volta, si sentiva leggermente esclusa. Paolo, e mangia di un supplì, eh? No, mamma, grazie, non ho fame, magari dopo. Uè, tu una pizzetta? Un bicchiere di spuma? E dai, mamma, siamo in spiaggia, mica in rosticceria. E che c'è a fa? Io tengo una fame che non ti vedo. E allora 800 24 00 24, per raccontarci in quale film avete rivisto magari una delle vostre vacanze o un personaggio che avete conosciuto in villeggiatura, partendo dal presupposto che forse in questo momento davvero di italiani in vacanza ce ne sono tanti. La vita in un film. Giovanni, io questo viaggio non lo reggo più. 12 chilometri di fila orte a Passo Duomo, 2 ore per mettere le catene a Roncobilaccio. La nebbia a Ferrara. Papà, siamo pure partiti alle 5 perché c'avevi l'ansia. Avvocato, sono 11 ore che stiamo in macchina. State zitta te, che sei pure ospite. Comunque la prossima volta per venire a Cortina chiamate Montezemolo e fatela accompagnare a Schumacher. E questa era Vacanze di Natale 2000, 800 24 00 24, La vita in un film. Oggi racconta e vi fa raccontare le vostre vacanze viste attraverso un film, appunto. È il nostro ospite in collegamento telefonico Enrico Vanzina, ma noi andiamo da Luigi da Vicenza, il primo ascoltatore che ha telefonato La vita in un film. Buonasera Luigi. Buonasera. Allora, quale film per raccontare se stessi in vacanza? Ma io mi ricordo Il Sorpasso, quello con Vittorio Gassman, La macchina, La Flaminia, ma soprattutto Castiglioncello. Era Castiglioncello proprio di quei tempi, di quando ero giovane. E mi fa venire a mente molti tratti della situazione odierna. Io nelle giovanette di oggi rivedo Catherine Spack, quella che papi lui ha vinto giocando a ping pong, ma lei monta su un grande motoscafo con un uomo molto più anziano di lei, e soprattutto il fatto che colui che muore non ne voleva sapere di partire per questa vacanza, che fosse piccola, breve o che, e invece la spensieratezza, la forzatura di Gassman che lo costringe quasi a partire con lui, e poi alla fine ci trova, quando comincia a divertirsi nella vacanza, ci trova la morte. Esatto. Luigi, grazie per la sua telefonata all'800 24 00 24. Uno straordinario road movie Il Sorpasso, oltre che un film appunto che racconta anche una vacanza in un certo senso, ma forse si concentra più sul rapporto fra i due personaggi. Enrico Vanzina, No, ma mi impressiona questa telefonata, perché in realtà Sapore di Mare, che è ambientato a Forte dei Marmi, in realtà racconta una cosa autobiografica, e io proprio le vacanze in quegli anni lì le passavo a Castiglioncello, per cui è impressionante questa telefonata, nel senso che veramente mi ha rimesso in mente tutto, e ha perfettamente ragione Luigi che ha chiamato. Quello è un film straordinario che dà, oltre al senso della vacanza, dà proprio il senso della vita, del destino. È un film che fotografava è uno dei film alle quali ci siamo continuamente ispirati, perché è un film che in tre giorni dà un'immagine instant del paese, si capisce di più dell'Italia attraverso il film Il Sorpasso che attraverso film considerati da autori più importanti che facevano della filosofia, mentre Risi con spensieratezza e acume ha fotografato l'Italia in quel film in maniera straordinaria. Ammesso che si potesse essere autori più importanti di Risi in un certo senso, perché, davvero, davvero straordinario cantore di quell'Italia. Enrico, il Sorpasso appunto è un road movie, no? È un film costantemente in viaggio, lì si fonde il momento della vacanza col momento del viaggio. Nei tuoi film quasi sempre invece questi due momenti sono distaccati, anzi tu ti concentri Sognando la California era un road movie, per esempio. Beh, certamente, quello sì, però diciamo tutta la serie dei vari vacanze all'estero, chiamiamoli così. Sì, ma quelli non li ho fatti io, però. No, certo. Io però... ne ho fatti soltanto i due o tre, quelli da Cortina e basta. Quelli di Cortina, vacanze di Natale. E poi ho fatto vacanze di Natale e vacanze in America, che è la storia di una scuola che è un road movie, anche quello. Quella è una storia autobiografica, perché tanti anni fa insieme a una scuola romana abbiamo fatto un viaggio attraverso tutta l'America, che fu una cosa, un'esperienza irripetibile. Ma quello che volevo chiederti era il viaggio che è un po' scomparso dalla nostra esperienza, cioè nel senso che per andare nei posti ormai si prende un aereo, in un'ora, due ore si è risolto un po' tutto, no? E una volta invece c'era questa cosa del viaggio a sua volta. Ecco, cinematograficamente è una mancanza questa? Beh sì, è una grandissima mancanza, perché alcuni film, insomma, da Easy Rider in poi, alcuni film della nostra generazione che hanno segnato proprio noi, sono proprio delle storie di storie itineranti, viaggi in movimento, ma gli stessi film degli anni 50 italiani con Sordi, non so, Il Diavolo, Lui che andava in Svezia, oppure Il Fumo di Londra, erano dei film in cui già si prendeva l'aereo, ecco. Il film proprio in macchina che ci si muove, forse l'ha fatto Salvatore su Marrakesh, ecco, forse Marrakesh Express è un film on the road. Certamente. Ecco. Certamente. Allora, noi andiamo ad ascoltare, sempre ricordandovi il nostro numero di telefono 800 24 00 24, proprio un film di più di 30 anni fa, se non sbaglio, che era firmato appunto Carlo ed Enrico Vanzina, anche Luna di miele in tre. Ascoltiamo. Senti Alfredo, fai come vuoi. Io stasera vado a ballare alla Perla Nera. Oh, c'è quattro donne, quattro. Pensa che vieni anche il marito dello Slogabigoli. Osti, che bell'ambientino. Beh, insomma, vieni o no? Altro che Slogabigoli. Io le ragazze le voglio belle come sulle mie riviste. Allora rimani in camera. E poi io le cose o le faccio al massimo o non le faccio. Enrico, qui siamo ben lontani nel tempo e le voci degli attori... Sì, è il primo film che abbiamo fatto. Si chiamava Luna di Mera in Tresi. Era ambientato in Giamaica, era con Renato Pozzetto tanti anni fa. Tanti anni fa, assolutamente, sì. Assolutamente. E poi anche qui era una vacanza premio in questo caso, se non ricordo male. Esatto, no? Lui vinceva un concorso di Playboy e vinceva una vacanza con una playmate, in realtà si era appena sposato, per cui praticamente faceva la vacanza in una cosa infernale, stava la notte, si divideva tra la moglie e questo premio, non combinava niente con nessuna delle due, come al solito capita ai comici. Allora abbiamo all'800 24 00 24 un altro ascoltatore, Daniele da Bologna. Buonasera Daniele. Buonasera Franco e complimenti innanzitutto. Grazie, troppo gentile. Allora dici un po' qual è il tuo film da vacanze, insomma, dove ti sei un po' rivisto in un certo senso. Un titolo assolutamente minore rispetto a quelli che ho sentito citare dal Sorpasso ai road movie, che è Da 0 a 10 di Ligabue. Certo, interessante scelta effettivamente. Un po' particolare, ma forse un po' perché dalla mia provenienza, ma soprattutto perché non propone tanto la vacanza, tra l'altro una delle vacanze più normali che si possono fare dalle mie parti, che è la vacanza a Rimini, quanto perché ripropone la voglia di rivivere la vacanza che accompagna sempre quando poi si cresce, perché in realtà il film è concentrato su un gruppo di amici che cercano di rifare una serata che si era interrotta male 20 anni prima. E in questo senso tocca abbastanza bene una realtà, che è quella del fatto che la vacanza, soprattutto se legata al viaggio, lascia spesso la voglia, che poi è un errore farlo quando ci si riesce, di riviverla a distanza di tanti anni. Assolutamente, è un errore, e infatti molto spesso capita, Daniele, che quando si riesce a riviverla ci si rende conto, come diceva prima Enrico Vanzina, che siamo cambiati noi poi, e quindi certe esperienze, ma addirittura certi luoghi non sono più gli stessi. Io ringrazio anche Daniele da Bologna che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Ricordo, tra l'altro mi sono dimenticato di dirlo prima, al primo ascoltatore che ci ha chiamato vanno 5 serate di grande cinema nell'ormai mitico cofanetto Wazoo, e invece a Daniele 2 serate, perché noi qui cerchiamo di mandare la gente al cinema anche gratis, però insomma cerchiamo di mandarla al cinema a vedere in film in sala. Enrico Vanzina, interpretando un po' il gusto diciamo più recente, lo faresti un film Vacanze in agriturismo? Ma l'agriturismo è un fenomeno diciamo abbastanza recente che però invece aveva delle basi fortissime in altri paesi europei, per esempio penso alla Francia o addirittura la Germania, dove sono in questo momento, anche in Inghilterra. Vale a dire, il gusto della campagna, di ritrovare una certa serenità, un modello di vita, un modo di vivere diverso da quello che viviamo quotidianamente nelle grandi città, è sicuramente qualcosa che sta nell'immaginario collettivo. Per cui insomma è molto interessante anche l'agriturismo. Personalmente, per quello che mi riguarda, lo trovo un filino noioso, ecco, dovendo scegliere, perché io credo che nella scelta di una vacanza, più che un contatto proprio con la natura e basta, proprio scelto così, bisognerebbe avere un'idea guida, vale a dire, non so, andare a scoprire qualcosa, scoprire l'Africa, scoprire cos'è il Mal d'Africa, ovunque in Africa, oppure scoprire il fascino straordinario della foresta, delle foreste amazzoniche, oppure scoprire le grandezze dei panorami americani o dei laghi del Canada, oppure la spiritualità dell'India. Ecco, adesso ho fatto degli esempi assolutamente banali, però dietro ci deve essere qualcosa che ti rimane, perché poi alla fine di un viaggio rimane un'idea base. Ecco. Certo, ci vuole qualcosa di fronte al quale porsi, in maniera anche magari entusiastica o comunque stupefatta. Secondo me sì, perché poi dopo naturalmente tutto questo ce lo possiamo avere anche vicino a casa nostra, perché voglio dire, anche fare un giro dell'Umbria o un giro delle Marche, regioni centrali di un'Italia poco conosciuta, è un'esperienza sensazionale in cui riscopriamo cosa siamo noi italiani. Voglio dire, non è che c'è bisogno di andare in Canada per forza, però ci vuole, chiudendo gli occhi, io che ho fatti tanti viaggi anche per lavoro, ho viaggiato moltissimo, quando chiudo gli occhi di un viaggio mi ricordo un sapore, un odore, una cosa che mi dà proprio la connotazione di quel paese. Questo secondo me, riuscire a trovarlo, è fondamentale. Certo, catturarlo. Allora, 800 24 00 24, c'è Mario in collegamento da Roma. Buonasera Mario. Buonasera. Allora, quale film? Il film è In viaggio con papà, di Sordi e Verdone. Beh, straordinario. Qui ci sono tanti temi dentro in questo. Sì, credo proprio per quello, infatti, credo sia importante, perché c'è il contrasto della generazione, il contrasto del genitore fanfarone con un figlio timido e succube del padre, ma è anche importante il film, secondo me, per quello che fa vedere di spazi, di luoghi bellissimi, importanti, e di un ritrovamento tra due generazioni che in fondo un po' si erano perse, e c'è anche, secondo me, la cosa più importante forse, è il passaggio del testimone da un attore all'altro. E questo senz'altro è stato uno dei momenti, infatti è stato letto molto spesso così In viaggio con papà, e questo confronto generazionale, con anche il confronto fra due Italie, una che andava un po' scomparendo e l'altra che non trovava ancora la sua strada, quindi tutto sommato anche con un'amarezza di fondo, a mio modo di vedere, che andava oltre il clima generale del film. Grazie anche a Mario da Roma. Abbiamo ancora 2 minuti e noi vogliamo fare una domanda a Enrico Vanzina, e la domanda canonica della vita in un film, ovvero se Enrico Vanzina ha rivisto se stesso, magari in questo caso una sua vacanza, oppure un pezzo del suo percorso di vita dentro un film. Ah, ma sì, credo di sì. Credo che in tantissimi film che vado a vedere trovo un po' di me stesso, ed è un'esperienza sempre interessante, perché è uno specchio nel quale si vedono tutti i nostri difetti. Per cui il cinema serve anche a questo. Ce ne sarebbero troppi da citare, però io francamente, facendo il cinema, credo che posso permettermi di dire che è il cinema in generale nel quale io mi ritrovo sempre, perché c'è sempre qualcosa che racconta qualcosa di me e mi fa capire delle cose di me. E in questo il cinema è sensazionale, delle cose anche talvolta futili o talvolta molto profonde, soprattutto la nozione del tempo, il tempo che passa, vedere attraverso il cinema come la tua vita insomma via via scompare, però rimangono delle cose molto importanti che altri colgono, e allora questo ti fa molto piacere. Grazie a Enrico Vanzina, ospite graditissimo qui alla Vita in un Film. Grazie Enrico. Grazie Franco, ciao, arrivederci. E allora noi lasciamo Enrico Vanzina, ci avviamo alla conclusione della nostra puntata, lo facciamo lasciandovi in compagnia di un film che negli ultimi anni forse ha rappresentato di più le Italie e che entrano a confronto e a contatto e anche a contrasto durante proprio una vacanza. Era Ferie d'Agosto di Paolo Virzì, con questo noi vi diamo appuntamento domani, qui alla Vita in un Film sarà ospite Maurizio Nichetti e giocheremo insieme a provare a volare, cioè i voli pindarici della nostra vita visti dentro un film. Un saluto da Franco D'Assisti. Cazzo d'acqua, che ci avevo sbagliato gli scogli, te stai bravo, vuole andare via la vai. Sei veramente capace. Ma che ne so, io pensavo che fosse legata. Scusate. Ha visto? Buongiorno, abbiamo buttato l'ancora. Il motore, puoi spegnere il motore, per favore. E come faccio? Vado a sbattere contro gli scogli. Il motore va spento a 200 metri da riva, sai, è pericoloso. Fabio, tirami la maschera. Non lo dico io, ci sono delle regole. Mi scusi, sa. È contento? Grazie. Guarda, non si butta la roba in mare. Lo so che non si butta la roba in mare, lo so. L'hai provata? Vuole che sia una goccia di cocombero su ragazzi. Ma guardi che è biodegradabile, eh.